Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 29 giugno 2015, boom della differenziata non convenzionale. I rifiuti valgono euro anche per i cittadini. La raccolta differenziata sta diventando non solo una buona abitudine, ma persino un affare per un numero crescente di italiani. Sono infatti sempre di più i comuni in cui sono gli stessi commercianti a ritirare carta, plastica o vetro in appositi contenitori in cambio di buoni sconto o prodotti in omaggio. La prima città a mettersi su questa strada era stata nel 2012 Riccione, dove il progetto Fare Raccolta, ideato da Omar Pivi e realizzato dall'azienda veneta Eurven, è stato promosso da 22 esercizi commerciali. Da quell'esperienza, rivelatasi positiva, è partita una tendenza che ha visto sempre più imprese o esercizi trasformarsi in collettori dei rifiuti differenziati, facendo concorrenza alle aziende pubbliche. Fin qui la notizia del 29 giugno 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto Fare Raccolta è stato lanciato sabato scorso a Riccione dal comitato Riccione Paese con l'obiettivo di trasformare la raccolta di plastica PET in una opportunità di business per tutti. Lucia Baleani, responsabile del comitato Riccione Paese. C'è questo distributore che ha tutte le sembianze di un distributore, dove le persone, qualsiasi cittadino, può andare a mettere il proprio rifiuto, il proprio PET, la propria plastica alimentare, e in base alla plastica che mette viene erogato uno scontrino pari a tot euro che è spendibile nei negozi di Riccione Paese, di un gruppo di commercianti di Riccione che hanno aderito a questo tipo di iniziativa, per cui possono andare o dal bar a prendere un caffè oppure andare nei negozi, perché gli scontrini sono anche cumulabili, per cui possono andare anche a far spesa nei supermercati. Insomma, è un'opportunità di questo genere, perché il rifiuto è una risorsa. Le somme le tireremo tra circa un mese, sinceramente, per avere un po' di dati, di quantità, anche se oggi già le dico che vengono a svuotare il distributore, diciamo, ogni 2-3 volte al giorno. Lei si immagini che il distributore contiene 25 kg di plastica, si può immaginare, insomma, la gente che lo frequenta e la gente che ha capito il meccanismo. Questo non viene in conflitto invece con quello che fa l'amministrazione comunale? Io non vorrei andare in conflitto con nessuno, però è chiaro che se io il mio rifiuto lo differenzio, devo avere comunque anche uno sconto, perché comunque noi siamo gestiti da una holding in Emilia Romagna, non abbiamo degli sgravi sulla bolletta se differenziamo, mentre loro il rifiuto comunque lo vendono. Comuni limitrofi che hanno sempre contratti con le municipalizzate, uno può essere contento, un altro un pochino meno, ci stanno chiedendo tutti chiarimenti su questo tipo di progetto, perché interessati anche loro a poterne usufruire. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.